Secondo la nostra cultura, il giuramento è quell'atto o quella formula con la quale si invoca una divinità testimonianza della veridicità di quanto si afferma e che impegna la propria coscienza, tanto di fronte a se stessi come dinanzi a un'autorità o ad altre persone. L'atto del giuramento si può ritenere vecchio quanto l'uomo e la Bibbia, che narra vicende umane fin dagli albori della razza. Menziona vari giuramenti fatti da uomini e donne. Può darsi che oggi il giuramento non abbia più il suo significato di integrità morale, ma è cosa certa che per millenni in tutte le culture il giuramento ha costituito meno per le persone moralmente sane, meno la formula finale per qualsiasi controversia. Ne troviamo una dimostrazione in una lettera scritta circa 2000 anni fa, e precisamente una missiva contenuta nella Bibbia indirizzata degli ebrei. Quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Ebrei 6.1-6.18 e veramente straordinario pensare che una divinità come quella degli ebrei e dei cristiani abbia fatto un giuramento perché l'uomo potesse essere sicuro che le promesse fossero vere. E non è il solo. Qualcuno ne ha contati 82. E veramente straordinario. L'Eterno Dio non ha giurato allo scopo di essere creduto, ma si è adeguato alla mentalità umana, secondo la quale, come abbiamo constatato, e come dice la parola di Dio, il giuramento pone fine ad ogni contestazione. Proprio perché il giuramento ha il fine di dare sicurezza agli altri e di far comprendere che quello che si dice è più che sicuro. Anche Gesù, quando era sulla terra, giurò più volte. Ma, essendo un ebreo che parlava con degli ebrei, non disse «io giuro», ma usò la formula di allora, e che in greco troviamo scritto «Amen, amen». Il termine «amen» vuol dire «così sia», oppure «ciò che dico è vero», e un doppio «amen». Acquista un significato di un giuramento perché esprime un superlativo. Come dire «ciò che vi dico non è solo vero, ma verissimo». Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù dice «Amen, amen» per 25 volte, nell'intenzione di porre in rilievo l'importanza delle sue affermazioni. Ho pensato di sostituire il doppio amen da lui, pronunciato con l'espressione, più attuale, ti giuro. Il primo giuramento di Gesù è espresso al capitolo 1. Gesù vide Natanaele, che gli veniva incontro e disse di lui, ecco un vero israelita, in cui non c'è, è frode. Natanaele gli chiese, da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico? Tu credi, tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, io ti giuro che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. 1.51. La promessa di Gesù, secondo la quale i discepoli avrebbero visto i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere, contiene una chiara allusione all'esperienza di Giacobbe, il quale, mentre fuggiva da suo fratello, Esaù, in un sogno vide degli angeli che salivano e scendevano da una scala, in cima alla quale stava l'Eterno. Riferendosi a questo episodio, Gesù giurò che da ora in avanti, il luogo nel quale la gente avrebbe incontrato Dio, era Gesù stesso, essendo lui stesso la via, la verità e la vita. Questo giuramento di Gesù non deve essere preso alla leggera perché, purtroppo, si insegna ancora oggi che per accedere a Dio vi sono altri mediatori, quali Maria o i santi. E, comprensibile come sia difficile scardinare certe abitudini religiose o non essere soggetti a sentimentalismi romantici per quanto riguarda la persona di Maria, la madre di Gesù. Ma il vero Vangelo ha proprio questa caratteristica: farci comprendere i nostri errori religiosi. Purtroppo non è facile riconoscere come tale un errore quando è la maggioranza a compierlo, o quando questo fa parte della nostra cultura, come per esempio gli induisti che ritengono sacri gli animali, o i giapponesi che ritengono divino il loro imperatore. Se i loro errori ai nostri occhi sono evidenti solo perché non fanno parte della nostra cultura, non è forse possibile che le nostre convinzioni religiose siano sbagliate anche se siamo pienamente convinti della loro esattezza? Si risponderà che la religione cattolica romana basa la sua fede sul Vangelo, ma anche i testimoni di Geova, seppur professando delle eresie, basano la loro fede sulla Bibbia. La cosa è seria. Se Gesù ha giurato di essere colui nel quale si può incontrare Dio, noi dobbiamo prenderlo sul serio e rifiutare ogni altro intermediario umano. Nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù giura per 3 volte. Anche questi giuramenti hanno un grande valore perché sono espressi davanti ad un sacerdote, ossia colui che esplicava le funzioni religiose davanti al Dio vero. Così leggiamo: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: ti giuro che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo aveva fatto un complimento a Gesù, riconoscendolo come un grande insegnante religioso che procedeva da Dio. Ma Gesù, senza tener conto delle parole del collega di religione, gli rispose in un modo un poco insolito: ti giuro che non è sufficiente essere religiosi, non è sufficiente avere una profonda conoscenza della parola di Dio, non è sufficiente insegnare agli altri cose intorno a Dio. Ma quello che importa è nascere di nuovo, e solo allora si potrà vedere il regno di Dio. Un discorso che sembra proprio fuori luogo, una risposta molto strana. E così Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: ti giuro che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. 3.18. La risposta di Gesù rincara la dose e fa capire a Nicodemo che in questo mondo vi sono due realtà opposte: vi è ciò che appartiene al terreno e ciò che appartiene al celeste. Dato che il terreno non può ereditare il celeste, è indispensabile entrare nella realtà celeste, cosa possibile solo mediante una nuova nascita spirituale. Altrimenti, dice Gesù, ti giuro che non potrai entrare nel regno di Dio. Parole forti, soprattutto in quanto rivolte ad un religioso che si riteneva in regola con Dio. Mentre il religioso Nicodemo pensava che bastasse conoscere bene la parola di Dio per essere guidati da Dio, Gesù gli fa presente che è lo Spirito Santo a guidare il credente, e questo Spirito si riceve sempre, secondo Gesù, al momento della nuova nascita, tramite un atto di fede consapevole in Cristo. Nicodemo era incredulo. Non aveva il coraggio di dirlo perché poco prima aveva confessato a Gesù che lui era un insegnante che parlava da parte di Dio, per cui l'unica alternativa era quella di porre altre domande. E così Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Ti giuro che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. In questo tratto di conversazione, oltre al ti giuro di Gesù, spicca un voi e un noi. Gesù dice a Nicodemo che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto. Evidentemente Gesù stava identificandosi con coloro che avevano realizzato la nuova nascita. Mentre dicendo voi non ricevete la nostra testimonianza, si riferiva a coloro che pur essendo religiosi, pur conoscendo la Bibbia, anche se istruiscono gli altri di religione, non possono accettare ciò che procede da Dio. In definitiva, Gesù sta giurando che senza una esperienza spirituale dopo la quale puoi affermare di conoscere Gesù, se non testimoni di aver visto con i propri occhi ciò che Dio ha fatto nella tua vita, non puoi proclamare la verità. Puoi parlare del Vangelo, di Dio, di Cristo, della Chiesa, ma non sai quello che dici se non hai realizzato la nuova nascita. Lo ha giurato Gesù e, in questo caso, per tre volte. Anche l'Apostolo Paolo, benché fosse ligio nella giusta religione, benché fosse pieno di zelo, quando realizzò la nuova nascita da adulto, si rese conto della sua grande illusione religiosa e, in una lettera a Timoteo in merito ad altri religiosi, testimoniò, in definitiva, la sua esperienza. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Un terametro 1.7. Il giuramento di Gesù deve essere preso sul serio, soprattutto da coloro che sono sacerdoti o qualsiasi altra autorità religiosa, anche perché Gesù ha detto che molti di coloro che hanno predicato Cristo, fatto miracoli o insegnato cose relative al regno di Dio saranno cacciati nel luogo dei tormenti. Perché questa dura sentenza? Forse per la loro malvagia condotta? Assolutamente no, andranno nei tormenti eterni. Solo perché non sono nati di nuovo. Lo ha giurato Gesù. Da un lato ci, per ragione di avere tanta gioia, perché la salvezza non si ottiene mediante le opere, ma dall'altro lato ci, è da stare poco sereni. Tutto dipende dalla nostra scelta. Anche nel capitolo 5 di Giovanni leggiamo che Gesù giura tre volte, e in questa occasione, in relazione al suo rapporto con il Padre. Leggiamo nel Vangelo che i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché non solo trasgrediva il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Al che Gesù rispondendo disse loro, «Io vi giuro che il Figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Perché il Padre ama il Figlio, egli mostra tutto quello che egli fa, egli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. 5.1623. Troppa gente nel corso dei secoli ha proclamato di operare da parte del vero Dio quando questo non era vero. Anche Gesù poteva essere uno di quelli, perciò era giunto per lui il momento di mettere in chiaro che tutto il suo operato era in obbedienza a suo Padre, ossia Dio. Perché? Perché lui guariva di sabato, il giorno nel quale l'Eterno aveva ordinato il massimo riposo, un ordine che induceva i giudei a ritenere illecita ogni opera compiuta in tal giorno, ma gli oppositori di Gesù non avevano capito lo spirito della legge. La legge era stata data agli uomini per il loro bene e non per renderli schiavi, perciò se qualcuno era malato poteva essere guarito anche in giorno di sabato. Ma il problema della discussione era molto più profondo, perché Gesù stava contraddicendo l'opinione che i giudei avevano di Dio. Nel libro della Genesi leggiamo che l'Eterno Dio, dopo aver completato la sua opera creativa e di restaurazione della terra, si riposò il settimo giorno, cioè il sabato. Ora Gesù stava dicendo che suo Padre operava, e perciò lui stava facendo ciò che vedeva fare al Padre. In definitiva, Dio, pur operando di sabato, non era colpevole di infrangere la legge del sabato data da lui stesso. Cosa? Questa. Che i giudei religiosi non potevano accettare perché intuivano le palesi implicazioni contenute nella risposta di Gesù. Se Gesù poteva fare quello che fa Dio, ne conseguiva che lui fosse Dio. Forse l'affermazione che ha fatto saltare i nervi ai giudei è che il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. Questo era il colmo dei colmi per i giudei. Come? Il padre? Non giudica nessuno? Non è possibile, perché anche il salmista disse: «L'Eterno giudicherà i popoli». Giudicami, o Eterno, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Esl. 7:8. Tutti sapevano che Dio stesso avrebbe giudicato gli uomini, Lui che è il solo a conoscere i cuori profondamente. Come può essere ora che sia un semplice uomo a giudicare l'umanità? Gesù sta forse dicendo di essere Lui, l'Eterno. Per i giudei, i quali conoscevano bene le affermazioni del profeta Isaia, se Gesù non stava attestando di essere l'Eterno, almeno stava sostenendo di essere Lui il Messia. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isaì e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenze per sentito di re, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Is 11.14. Dunque Gesù stava giurando di essere sia Dio sia il Messia. Inoltre calca la dose, aggiungendo la ragione del suo operato, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. È possibile simpatizzare con l'incredulità dei giudei, perché a questo punto occorreva veramente un grande atto di fede. Com'era possibile onorare Gesù nella stessa maniera di Dio? Com'è possibile che non onorando Gesù non si onori neppure il Padre che lo ha mandato? Può Dio condividere la sua autorità, la sua gloria e il proprio onore con un uomo? Chi era dunque questo Gesù, figlio di Maria? Ecco perché in seguito Gesù farà un altro giuramento. Io vi giuro che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dobbiamo tener presente che se Gesù ha giurato è perché stava dicendo qualcosa di tanto grande e impossibile da rendere necessario far comprendere agli ascoltatori l'assoluta certezza e veridicità delle proprie dichiarazioni. E ha ragione, perché ora parlava niente meno che di vita eterna. Un argomento al quale tutti siamo sensibili e che tutti cercano di ottenere a qualsiasi prezzo. Gesù ha giurato che chi lo ascolta e crede in suo Padre possiede ora la vita eterna e non viene in giudizio. Questa conclusione è il normale risultato ottenibile da chi pone fede in Cristo, perché se è Gesù colui che giudica e giudicherà le genti, va da sé che chi crede a quanto Gesù ha detto e fatto non debba essere condannato. In effetti la ragione della condanna degli uomini non sta nel fatto che siano peccatori, perché Dio ha riconciliato il mondo a sé mediante Cristo, perdonando tutti i loro peccati. Ma la vera motivazione sta nel loro rifiuto di credere che l'opera di Cristo sia sufficiente per renderli giusti nel cospetto di Dio. Perciò Gesù ha giurato che chi ritiene la sua opera irrepetibile e sufficiente per entrare nel regno di Dio può fin da ora essere certo di essere tra coloro che staranno alla presenza di Dio. Questo secondo l'affermazione stessa di Gesù, ma anche perché vi è un fatto irrepetibile come è irrepetibile il sacrificio di Cristo. Il credente è passato dalla morte alla vita. Dopo 2000 anni, l'espressione passare dalla morte alla vita ha, molto probabilmente, ha perso il significato originale, per cui è opportuno rifletterci sopra. Innanzitutto occorre tenere presente che i termini biblici sono vecchi di millenni e perciò occorre comprenderli secondo il senso attribuito loro dagli scrittori che li hanno usati. Il termine morte nella Bibbia si riferisce alla separazione, Per cui quando si dice che un uomo è morto significa che il suo spirito è separato dal corpo. Oppure quando il padre della parabola del figlio prodigo disse che suo figlio era morto, voleva intendere che era separato da lui. Così quando la parola di Dio dichiara che tutti gli uomini sono morti nel cospetto di Dio, vuol dire che sono separati da Dio. Il termine vita, invece, ha il suo significato contrario e si riferisce a tutto ciò che è in armonia. Quindi, quando Gesù giurò che chi avrebbe posto fede in lui sarebbe passato dalla morte alla vita, intende dire che il vero credente saggia l'esperienza di passare da una separazione da Dio ad una vera e intima comunione con Lui. E per questo può avere la certezza di sapere e di possedere la vita eterna senza perderla mai, sia perché non verrà in giudizio, sia perché ha subito una trasformazione tale che non ripeterà mai più. Inoltre, se teniamo presente che la vita eterna non è un'esistenza migliore senza fine, né un luogo dove vi è beatitudine, pace, gioia, felicità e nemmeno un insieme di regole o l'appartenere al regno di Dio, ma è la persona stessa di Gesù Cristo, allora quando Lui ha preso sul serio una resa incondizionata nei suoi confronti, non permetterà mai, per nessun motivo, che il soggetto di tale esperienza vada in perdizione. Dopo aver giurato che i credenti in Lui hanno la vita eterna, Gesù fa subito un altro giuramento a coronamento. Io vi giuro che l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. 5.1627. Abbiamo detto che il termine morte ha il significato di separazione, perciò i morti ai quali Gesù si riferisce in questo discorso possono essere di due tipi. Il primo rappresenta coloro che sono alla presenza di Dio con l'anima, ma il corpo dei quali è rimasto sulla terra. Molto probabilmente Gesù non si riferisce a tutti coloro che sono al cimitero, ma solamente a quelli che in vita si sono arresi a Lui accogliendo il perdono dei propri peccati. Deduciamo questo perché Gesù ha detto che solo alcuni udranno la sua voce. Perciò, dato che fra i morti i primi a udire la sua voce sono coloro che appartengono alla Chiesa per essere da Lui stesso, rapiti velatamente, Gesù ha dichiarato che ormai è giunto il momento, l'ora viene, nel quale la Chiesa sarà rapita. Se invece i morti ai quali Gesù si riferisce sono coloro che oggi esistono ma sono separati da Dio, Gesù ha detto che è giunto il momento, è già venuta, nel quale tutti coloro che odono la voce di Cristo Gesù ricevono la vita eterna. E questa è l'esperienza che migliaia di persone fanno ogni giorno. Conosco un giovane che ha vissuto da ateo senza il minimo problema religioso, fino al giorno in cui sente parlare di Gesù da una ragazza la quale a sua volta aveva sentito parlare del Vangelo. Ad un tratto il suo cuore ha un sobbalzo. Ci riflette e pochi giorni dopo, per una banale esperienza, si rende conto della presenza del Dio Creatore. Pone fede in questa voce interiore senza sapere ciò che stava succedendo. La prova dell'aver riposto fede nella voce di Cristo trova dimostrazione quando dopo solo 2 anni il giovane incontra dei credenti e si associa a loro. Il volere di Dio è che gli uomini ascoltino la sua voce e che ogni essere umano non rigetti le sue parole. E Gesù donerà loro la vita eterna. Questo Gesù lo ha giurato perché meno come egli ha detto, meno come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Come il Padre, così il Figlio. Questo è il tema continuamente ricorrente nel Vangelo di Giovanni. Se Gesù non fosse Dio, nessuno avrebbe superato la sua pazzia o presunzione. Ma Gesù è Dio, e nello stesso modo che Dio ha giurato, anche Lui lo ha fatto. Non ha giurato per imitare Dio, ma essendo Dio ha giurato con l'autorità di Dio. Ora, se il Dio Trino è disposto a giurare per aumentare la nostra sicurezza, l'incredulità da parte nostra lo rende bugiardo. Vi è forse una offesa più grande? Al capitolo 6 di Giovanni, Gesù giura 4 volte durante un'occasione e nel corso di un discorso che dopo 2000 anni è stato stravolto dalla religione cattolica romana. Come spesso succedeva, Gesù era ricercato dalla folla, e così leggiamo nel Vangelo. La folla, che era rimasta sull'altra riva del mare, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse: «Io vi giuro che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo». 6.2227. Da un certo punto di vista appare molto strano questo giuramento di Gesù, ma se ha parlato in questo modo è perché voleva far comprendere alla folla la ragione sbagliata del loro interesse nei suoi confronti. Se Gesù avesse detto «a me sembra», la folla poteva anche sentirsi in regola. Tuttavia, davanti alla dichiarazione di Gesù di essere più che certo di essere cercato per interesse, ora la folla era pronta anche a cercare ciò che aveva valore. Così deve essere anche per chi predica il Vangelo. Al giorno d'oggi si insegna di essere sempre positivi e di far esaltare le cose buone delle persone. Ma se le folle non comprendono che la loro ricerca di Dio non è motivata da altro se non da egoismo e volontà di ottenerne i favori, non potranno mai rivolgersi a Cristo nel modo giusto. Occorre ricordare sempre che Gesù è venuto perché l'uomo si ravveda, e ravvedersi significa niente meno vedersi di nuovo, sotto un aspetto diverso, cioè vedersi come Dio lo vede. Quando le persone ascoltano il messaggio di Dio e rispondono «ma, secondo me», in quel momento rifiutano di ravvedersi. La folla capì il solenne giuramento di Gesù e fu colpita nel cuore, al punto che leggiamo nel Vangelo. Gli chiesero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Quale segno fai tu dunque, affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi?» I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: «Io vi giuro che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo». Essi allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». E Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto ma non credete». 6.3036. Gesù era riuscito a portare la conversazione sul binario giusto. Ora la folla era disposta a compiere le opere di Dio, ma 3.6 Gesù era cazza quante c'era un ma. Gli astanti ora volevano una prova che le sue parole fossero provenienti da Dio, e casomai una prova come quella di Mosè che sfamò il popolo di Israele con la manna. Gesù aveva giurato di conoscere il loro comportamento e niente più, per cui ora fa un secondo giuramento che li porta a riflettere seriamente. Ora giura che il vero pane è quello che discende dal cielo da parte del Padre, e che lui stesso è questo pane, o meglio ancora è il vero pane della vita. Non solo. Gesù rincara la dose delle sue affermazioni dicendo che chi va alla sua presenza non avrà mai più fame, e chi crede in lui non avrà mai più sete. Parole forti e arroganti, ma dette da Gesù dopo un giuramento non si possono ignorare. Chi non ha fame della conoscenza di Dio? Chi non ha il bisogno di dissetare il suo desiderio di vita eterna? Ebbene, Gesù non ha indicato nessun altro essere umano, non ha indicato sua madre Maria o Giuseppe, non ha indicato qualche apostolo, qualche santo, ma ha detto, o meglio, giurato che lui e solo lui è in grado di sfamare qualsiasi desiderio spirituale. Eppure, nonostante lo vedessero, i suoi ascoltatori non ci credevano. Questo particolare dovrebbe far riflettere perché anche oggi molti dicono che se vedessero Gesù o un morto risuscitare sarebbero pronti a crederci. Ma per dire questo bisogna pensare di essere migliori dei contemporanei di Gesù. Ma è proprio vero questo. La conversazione sul tema del pane diventava accesa, anche perché Gesù continuava a dire ostinatamente di essere disceso dal cielo. Un discorso del genere oggi farebbe pensare che Gesù dichiarasse di essere un E.T., cioè un extraterrestre, e questo sarebbe inaccettabile per chiunque, anche ai giorni nostri, tanto più per i contemporanei di Gesù che ne conoscevano bene il padre e la madre. Perciò, visto che i giudei e la folla non capivano, Gesù pronuncia il terzo giuramento, affinché potessero afferrare la concreta veridicità delle sue parole. Ecco il suo discorso. Io vi giuro che chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. 6:47-51. L'insistenza di Gesù su essere disceso dal cielo non era tanto per far capire la sua diversità dagli altri uomini o che era Dio. Ma il suo scopo era quello di far comprendere che essendo disceso dal cielo poteva dare qualcosa di eterno, di durevole. Lo dimostra il fatto che il pane terreno ti sazia per un periodo di tempo, mentre Gesù promette a chi va a lui, ponendo in lui solo la propria fede, di rimanerne saziato e di vivere per l'eternità. Poi Gesù entra nello specifico e chiarisce che il pane che produce la vita eterna è la sua carne, la quale egli avrebbe data per la vita di tutti gli esseri umani. Il ragionamento di Gesù induceva gli ascoltatori a fare un'inevitabile associazione. Se è necessario mangiare il pane terreno per poter vivere, significa che bisogna mangiare la sua carne per poter ottenere la vita eterna. Un'associazione molto pericolosa, soprattutto per i giudei ai quali era vietato assolutamente di mangiare non solo animali impuri, ma soprattutto carne umana. E la loro risposta non poteva essere altra da quella che troviamo scritta nei Vangeli. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? 6.52. La risposta era più che sensata, anche se, considerata nel suo contesto culturale, meno la conversazione era entrata nell'assurdo, perché nessuno di coloro che facevano parte di una simile disputa pensava di mangiare carne umana. Infatti, se Gesù avesse parlato di mangiare carne umana, minimo, lo avrebbero lapidato, o, nella migliore delle ipotesi, se ne sarebbero andati per non parlare mai più con lui. Ma Gesù sapeva quello che stava dicendo, quindi, a questo punto della conversazione, emette il quarto giuramento. Perciò Gesù disse loro: io vi giuro che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me, vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non è come la manna, che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. 6.53-58. Ora, Gesù usa il linguaggio dei suoi ascoltatori. Visto che pensavano di dover mangiare la sua carne, Gesù dice esplicitamente che per avere la vita eterna occorre non solo mangiare la sua carne, ma bere anche il suo sangue. Se fossimo in grado di fare un salto di 2000 anni indietro per poter presenziare alla conversazione tra Gesù e i giudei, a questo punto diremmo di aver assistito alla massima manifestazione della pazzia umana. Gesù ordina di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. A parte meno, come abbiamo considerato, meno che era impossibile per un ebreo pensare di mangiare carne umana e berne del sangue, se il discorso di Gesù fosse preso alla lettera, il Figlio di Dio avrebbe inaugurato la più grande religione sanguinaria del mondo. Se Gesù avesse detto meno come sostiene il cattolicesimo romano che occorre bere il suo sangue e mangiare il suo corpo nel senso letterale, i suoi seguaci sarebbero dei veri e propri cannibali. Eppure, secondo il romanesimo meno durante la messa, chi prende l'ostia mangia veramente il corpo e il sangue di Gesù. Che dire? Ognuno libero di credere come vuole, ma gli si chiede almeno coerenza nel credere. Se fosse vero che prendendo l'ostia veramente si mangia il corpo e si beve il sangue di Gesù, dovrebbe anche essere vero che con questo gesto il credente dovrebbe professare di essere certo di avere la vita eterna. Questo lo ha giurato Gesù. Perché allora un cattolico romano non è certo della salvezza? Perché può commettere ancora dei peccati che possono portarlo alla perdizione eterna? Una cosa è certa. Gesù ha giurato più volte che chi pone fede in Lui ha la vita eterna ora, e questo nessuno lo può negare. Se chi pone fede in Cristo cattolico romano, protestante, evangelico, ortodosso, testimone di Geova, non professa la certezza della vita eterna in questa vita terrena, allora vanifica gli innumerevoli giuramenti di Gesù, e mi chiedo, qual sia l'offesa più grande, è dubitare della certezza della salvezza, o essere increduli nei confronti dei giuramenti di Gesù. Un dubbio che è possibile togliere con una preghiera: Signore Gesù, io credo di essere un grande peccatore perduto, ma tu sei l'unico e grande Salvatore. Credo che hai tolto tutti i miei peccati con la tua morte e resurrezione, e perciò credo meno, come tu hai giurato, meno di avere ora la vita eterna. Ti ringrazio ora e per l'eternità. Anche al capitolo 8 di Giovanni troviamo tre giuramenti di Gesù, uno in merito al peccato, l'altro in merito alla vita eterna e l'ultimo riferito alla sua divinità. In merito al peccato leggiamo così nel Vangelo. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire? Diventerete liberi». Gesù rispose loro: «Io vi giuro, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or, lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». 8.3.1.3.6. Gesù aveva toccato un argomento delicato: la libertà. Se c'era una cosa sentita dagli ebrei era proprio la libertà, perché da secoli il popolo di Israele era schiavo ora di una nazione, ora di un'altra. Così al solo udire la parola libertà, la loro attenzione era catturata. Quando Gesù fece notare ai suoi ascoltatori la loro condizione di schiavitù, essi subito si ribellarono perché ritenevano di essere progenie del loro antenato Abramo e quindi ritenevano di non essere mai stati schiavi di nessuno, anche se come popolo dovevano essere sottomessi ad altri. Un orgoglio nazionale che nessuna schiavitù poteva togliere. A questo punto, Gesù, per far capire a quale asservimento si stesse riferendo, dichiarò che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Una conclusione che merita di essere presa in esame, anche perché dopo 2000 anni gli uomini non hanno capito di essere schiavi del peccato. Il concetto di schiavitù oggi è proprio inconcepibile in Europa, sia perché la schiavitù umana non esiste, sia perché al solo parlarne gli uomini si ribellano. Uno degli orgogli della cultura occidentale è proprio quello di ritenersi uomini liberi e di predicare la libertà come uno dei beni più preziosi. Eppure mai quanto nell'Occidente, tanto orgoglioso della propria condizione di libertà, gli uomini sono stati così schiavi. Senza voler usare il termine peccato, gli uomini sono schiavi del fumo, della droga, del successo, del benessere, del sesso, della fama, dell'arrivismo, del denaro, del potere, del lavoro e di tante altre cose che non lo lasciano libero. Com'è possibile definire gli uomini schiavi delle cose che abbiamo citato? Per il fatto che molti dichiarano di non poterne fare a meno, mentre altri per queste cose sono costretti a perdere serenità e salute. Ha ragione la parola di Dio, dichiara: più forte l'uomo che vince le sue passioni, di colui che vince una guerra. Gesù non si è presentato come un profeta, come un insegnante o un taumaturgo, ma ha parlato in modo tale che, preso sul serio, non può lasciare indifferenti. Forse pochi lo hanno capito, ma la ragione delle discussioni tra lui, i farisei, i sadducei o le persone colte del popolo stava proprio in questo problema di fondo. Gesù parlava come nessun uomo ha mai parlato. E non solo. Si esprimeva in un modo tale da potersi uguagliare unicamente a quello di Dio. Per cui chi ascoltava e prendeva sul serio le sue parole era costretto ad arrabbiarsi o ad adorarlo. E per questo che negli Evangeli troviamo descritte delle lunghe discussioni, le quali, sebbene da un lato sembrano marginali, rivelano tuttavia il problema di fondo tra Gesù e i suoi ascoltatori. Alla rivendicazione dei giudei di avere come discendente Abramo, Gesù rispose: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità che ho udito da Dio». Abramo non fece questo. «Voi fate le opere del padre vostro», perciò essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio». Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio, non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non coglie verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete». 6.3945. Dopo certe discussioni è molto facile comprendere la ragione di questo astio dei giudei nei confronti di Gesù, il quale, come se non bastasse, non si limitava solo a parlare, ma in più giurava riguardo la veridicità delle sue parole e attestava cose a suo riguardo che solo lui poteva affermare. «Io vi giuro che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno». Cosa replicare? Gesù sta nientemeno sostenendo agli astanti che, se vogliono vivere in eterno, devono accettare quelle ardite affermazioni rivolte a loro e a se stesso. Devono cioè ammettere di essere figli del demonio e di aver di fronte colui che può dar loro vita eterna. Non stupisce quindi la risposta dei giudei: «Ora conosciamo che tu hai un demone. Abramo e i profeti sono morti, tu invece dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte in eterno. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto. Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» 8.5.253. Molto probabilmente avrei risposto così anch'io. Al di là delle risposte di Gesù, a stupire sono la calma e la serenità da lui mantenute nonostante le continue provocazioni tese a smentire le sue affermazioni rispetto alla propria identità. Chi legge gli Evangeli ormai ha fatto l'abitudine a questa calma di Gesù dinanzi alle offese rivoltegli. Ma Gesù era anche un uomo come tutti noi, non bisogna mai dimenticarlo. Considerato che i giudei continuavano a provocarlo e a mettere in dubbio ciò che affermava, ora Gesù fa un altro giuramento senza paragoni nell'ambito umano. Dato che si parlava di Abramo e a seguito del giuramento di essere più grande del patriarca, poiché i giudei a questo punto gli chiedono con arroganza chi pretendi di essere, per Gesù era giunto il momento di scoprire le carte e dire apertamente chi era. E per togliere ogni dubbio, giura mentre ancora una volta sta sostenendo di essere più grande di Abramo: «Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: «Io vi giuro, prima che Abramo fosse nato, io sono». 8.5657. Occorre una certa dimestichezza della parola di Dio perché capire le ciclopiche parole di Gesù e la solennità del discorso. Ma per il nostro studio è sufficiente fare notare un solo particolare. Tutti gli studiosi biblici, all'infuori dei testimoni di Geova perché hanno degli interessi, sono d'accordo nell'affermare che nel giuramento, prima che Abramo fosse nato io sono, Gesù stava attestando di essere colui che si era rivelato a Mosè nel pruno ardente, il che voleva dire niente meno che Yahweh, la divinità presente nell'antico. Per i giudei questo era il colmo dei colmi, anche perché tra l'altro l'aveva giurato, manifestando in tal modo la consapevolezza della propria dichiarazione. Quale poteva essere la reazione dei suoi ascoltatori? La troviamo scritta nel Vangelo. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro. E così se ne andò. Questa è stata l'inevitabile e giusta conclusione per chi non credeva ai giuramenti di Gesù. La cosa dopo 2000 anni fa riflettere. Chi crede oggi che Gesù sia Yahweh, la divinità che ha vissuto, che si è fatta vedere e toccare dagli uomini nell'Antico Testamento? Di fronte a questa verità, due possono essere le reazioni. O tirare le pietre meno in senso simbolico, meno a questa verità, oppure accettarne i giuramenti e credere che Gesù sia in grado di liberarci da ogni schiavitù di peccato, confidare che Lui sia Yahweh e ci dia la vita eterna. La seconda reazione è quella giusta per noi. Al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, Gesù fa due giuramenti in merito alla sua persona. Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei, che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Io vi giuro che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore». 9.39 e 10.12. Nelle nostre Bibbie questo brano è diviso tra il capitolo 9 e 10, e questo fa sì che il giuramento di Gesù sia ritenuto distaccato dal suo contesto, ma leggendolo secondo lo scritto originale si comprende meglio il motivo del giuramento di Gesù. Ha giurato. Gesù ha spiegato uno dei motivi per cui è disceso dal cielo e, contrariamente alle aspettative, afferma di essere venuto in questo mondo per rendere cieco chi sostiene di vedere e per aprire gli occhi a coloro che non vedono. E evidente il contrasto di questa affermazione con la successiva di essere la luce del mondo. Ma ogni verità va presa nel suo contesto. È vero che Gesù si presenta come colui per mezzo del quale è possibile vedere e comprendere Dio e le cose della vita in modo corretto, ma è anche altresì vero che coloro che credono di sapere già sufficientemente e si ritengono tanto savi da rifiutare l'opinione di Gesù diventano stupidi e insensati, cioè non vedenti. Proprio per questo Gesù dichiara ai farisei, cioè a coloro che facevano imparare la volontà di Dio, di essere ciechi, perché rigettavano i suoi insegnamenti. E a questo punto che Gesù introduce l'aspetto del pastore delle pecore. Tutti gli uomini hanno bisogno di essere guidati, come ne hanno bisogno le pecore, perché senza pastore la pecora non sa dove andare. Così, se tutti sono delle pecore, è anche evidente che queste abbiano un ovile, e se vi è un ovile, è evidente deve esserci una porta per potervi entrare e uscire. Ora giura Gesù: chi entra per la porta è solo il pastore, mentre chi entra in un ovile da un'altra parte, per forza di cose, è una persona della quale non bisogna fidarsi perché è o un ladro o un brigante. Verità ben conosciuta dai suoi ascoltatori, appartenenti a un popolo dedito alla pastorizia. Poiché l'argomento era conosciuto, Gesù continua il suo discorso facendo un altro giuramento molto importante. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno. Anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: «Vi giuro che io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà, e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 10.3.10. Più volte troviamo scritto nei Vangeli che le folle e anche i discepoli non capivano i discorsi di Gesù, eppure il Figlio di Dio non diceva nulla di straordinario perché le similitudini da lui impiegate altro non erano se non episodi ordinari della vita dei giudei. Così, pur menzionando la porta dell'ovile, cosa più che risaputa, Gesù ora sta chiaramente affermando: «Vi giuro che io sono la porta delle pecore». Una porta è quello spazio che ti permette di passare da un vano ad un altro. Così Gesù ha detto di essere letteralmente la persona mediante la quale si può avere accesso alla vita eterna, oltre che a una esistenza abbondante e a tanto benessere. Ancora una volta Gesù non indica qualcuno o qualcosa per ottenere ciò a cui l'uomo aspira fin dalla nascita, ma ha sempre presentato se stesso sia come punto di partenza, sia come punto di arrivo. Dobbiamo veramente rammaricarci che al giorno d'oggi la maggioranza delle persone non abbiano capito questa esclusività di Gesù e lo palesino. Continuando a sostenere che cattolici, protestanti e musulmani adorano lo stesso Dio. L'unicità, tra l'altro, di Gesù consiste anche nell'aver presentato un Dio trino per nulla somigliante a quello rivendicato dai musulmani. Gesù è la porta per entrare nell'ovile di Dio. Chiunque pretenda di entrarvi in un modo diverso tramite il battesimo o l'appartenenza ad una religione meno di fatto non entra nel regno di Dio e non ha come pastore Gesù. Ciò che ha detto Gesù è molto comprensibile. Ma gli uomini, come sta scritto, hanno la caratteristica di rendere difficili le cose chiare e cercano molti sotterfugi pur di non accettare l'esclusività di Gesù quale unica e sola entrata per accedere alla vita eterna. Un altro giuramento di Gesù ne mette in evidenza l'opera redentrice. Lo troviamo al capitolo 12. Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Io vi giuro che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre, lo onorerà». 12.2026. Alcuni greci volevano conoscere Gesù, ma Gesù, essendo al corrente della loro cultura, amante di tutto ciò che era grande ed esaltava l'uomo, coglie l'occasione per mettere in evidenza l'aspetto più umiliante della propria missione. E con questo discorso Gesù annuncia la sua morte umiliante sulla croce, senza la quale l'umanità non sarebbe stata riscattata. Dunque, chi vuole conoscermi deve prima sapere che io sono morto in croce per salvare tutti gli uomini, perché tutti gli uomini sono perduti peccatori. Questo discorso non è assolutamente nuovo al giorno d'oggi, ma lo diventa nel momento in cui occorre credere in Cristo quale Salvatore e Signore. In genere le persone sono disposte a credere in Cristo perché sarebbe da stupidi non voler accettare una vita futura nella beatitudine eterna. Ma quando comprendono che occorre riconoscere e dichiarare la propria incapacità per ottenere la salvezza, quando si rendono conto che senza la confessione della propria perdizione non si può essere salvati, Quando occorre perdere la propria libertà per sottometterla a Cristo, allora e solo allora esce la dura resistenza al messaggio di Dio. Non per nulla Gesù specificò: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Perdere la propria vita significa rinunciare concretamente alla propria volontà, mollare le proprie corrotte inclinazioni naturali per compiere ogni istante la volontà di Dio. E questo non è facile, anzi, impossibile, perché solo lo Spirito Santo è in grado di esprimere la santità di Dio nel credente. Al capitolo 13 Gesù giura 4 volte. Il primo giuramento lo fa per coloro che seguono le sue parole. Io vi giuro che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. 16-17. Questo giuramento porta tanta consolazione a chi ha posto fede in Cristo e ubbidisce alla sua volontà, perché Gesù sta dicendo, niente meno, che i suoi seguaci saranno trattati non meglio di come lui è stato trattato. Se Gesù è stato deriso, schernito perfino da sua madre, dai suoi fratelli, sorelle e parenti, cosa si deve aspettare? Uno che serve Cristo può essere stimato maggiore di Cristo? Può essere trattato meglio di chi è morto in croce come un malfattore? Inoltre, può essere ritenuto più grande del suo Signore? Nonostante questa vita di umiliazione, Gesù è talmente consapevole della grandezza della propria missione, al punto da esprimere un ulteriore giuramento. Io vi giuro che chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Versetto 20. Che bella prospettiva per il credente. Chi ascolta le parole del Vangelo pronunciate da un credente, ascolta direttamente Gesù, e chi ascolta e accetta Gesù riceve anche Dio, il quale lo ha mandato. Vi è forse una missione più grande per il credente? Dopo aver detto queste cose, Gesù fa uno dei più tristi giuramenti che non vorremmo mai sentire. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e, apertamente così dichiarò, «Io vi giuro che uno di voi mi tradirà». 16-22 Gesù era sicurissimo che Giuda lo avrebbe tradito tanto da giurarlo, ma, per quanto mi riguarda, in questo brano della Scrittura, toccante è il commento dell'Evangelista Giovanni. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo a chi si alludesse. Straordinario! Gesù sapeva fin dall'inizio che Giuda lo avrebbe tradito. Eppure lo aveva sempre trattato in modo tale da non destare il minimo sospetto negli altri discepoli. Saremmo riusciti noi a comportarci così. Ma Gesù non si limita solo a questo drammatico giuramento. Ne annuncia uno anche riguardo a Pietro, quando questi gli assicura che avrebbe dato la sua vita per lui. Così leggiamo nel Vangelo. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? Io ti giuro che il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Vigv 38. Così, Gesù non ha solo giurato per cose riguardanti il regno di Dio, ma anche riguardo a cose terrene, e questo fa riflettere. Quando la parola di Dio ci dice che seguire la volontà di Cristo è un bene per noi, quando promette non solo beatitudine nel futuro ma anche nel presente, questo è vero. Verissimo. Dio lo ha giurato. Perché non porvi fede? Hai solo da guadagnare. Gli ultimi giuramenti espressi da Gesù si trovano nell'Evangelo di Giovanni ai capitoli 14, 16 e 21. Al capitolo 14 leggiamo: credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Io vi giuro che chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Versetto 11-12. Durante tutta la vita Gesù ha ostinatamente insistito di avere la stessa natura divina del Padre, nella specifica intenzione di essere riconosciuto non come un profeta magari maggiore degli altri, ma pur sempre tale, né come Messia. Ma quale Dio fattosi carne? E, essendo cosciente che il proprio parlare poteva anche essere scambiato per quello di uno squilibrato, Gesù chiedeva ai suoi discepoli di credere in lui sulla base delle opere che compiva, più che sulle proprie asserzioni. Dopo aver sollecitato i suoi discepoli a credere in lui fondandosi sulle azioni palesate, Gesù giura che chi poneva fede in lui avrebbe fatto non solo opere come le sue, ma persino maggiori. Come può un credente compiere opere maggiori di Gesù? Gesù ha camminato sulle acque, ha calmato il mare, ha sfamato migliaia di persone con pochi pezzi di pane. Quali opere maggiori di Gesù può compiere il credente? Le opere dei credenti non possono essere quantitativamente né qualitativamente più grandi delle opere di Gesù, ma lo risultano perché posseggono il privilegio di annunziare la totale opera redentrice compiuta di Cristo. In definitiva, non è tanto l'azione dei credenti in se stessa ad essere maggiore, quanto l'annuncio dell'opera, ineguagliabile di Cristo. Anche su questo aspetto occorre soffermarci. Di tanto in tanto, vi sono persone che si arrogano il diritto di compiere miracoli o prodigi per la volontà di Dio, ma come assicurarsi che questo sia vero? Questo interrogativo è sempre stato presente tra coloro che temono Dio, ma il Dio delle Scritture ha dettato i confini del giudizio. Se sorge in mezzo a te un profeta o un sognatore di sogni che ti proponga un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti ha parlato si avvera e dice: seguiamo altre divinità che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai ascolto alle parole di quel profeta o di quel sognatore di sogni, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Seguirete l'Eterno, il vostro Dio, Lui temerete, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, lo servirete e rimarrete stretti a Lui. DT 13.14. Le altre divinità alle quali si riferisce il Dio dei cristiani sono tutte quelle persone alle quali ci si rivolge in preghiera. Altre da Gesù Cristo. Ne conosci tu qualcuna? Come spesso succedeva, i discepoli non comprendevano ciò che Gesù diceva, e così il Maestro fa un altro giuramento per rassicurare il cuore dei discepoli. Gesù dunque comprese che lo volevano interrogare, e disse loro: vi domandate l'un l'altro perché ho detto, fra poco non mi vedrete più, e un altro poco, e mi vedrete? Io vi giuro che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione sarà mutata in gioia. V 19:20. Con questo discorso, Gesù si riferiva alla propria morte e resurrezione. I discepoli quindi prima sarebbero stati rattristati per la morte, ma poi si sarebbero grandemente rallegrati per la sua resurrezione. Gesù lo ha giurato, perché i discepoli fossero più che sicuri della non casualità degli avvenimenti imminenti che lo riguardavano, e perché fossero estremamente convinti che fossero un preciso piano dettato dalla volontà di Dio. Era molto importante per i discepoli avere queste certezze, perché altrimenti avrebbero potuto accusare per tutta la vita dei sensi di colpa per la morte del loro maestro. Ma sapendo che tutto era preordinato e predestinato, At 2.23, con il massimo vigore potevano testimoniare della morte e della resurrezione di Cristo Gesù sereni in coscienza. Questo principio dovrebbe anche abitare nel cuore del credente, perché meno come sta scritto il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. PR 16.9. E ancora i passi dell'uomo li dirige l'Eterno. Come può quindi l'uomo conoscere la propria via? PR 20.24. Il credente può vivere sereno in tutte le situazioni, sia positive sia negative, solo se crede che la sovranità di Dio sia più grande dei suoi errori. E con questa serenità egli può rivolgersi a Dio in preghiera in modo efficace, anche perché Gesù lo ha giurato: voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo. E il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. Io vi giuro che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. 16.2024. Questo è un giuramento da non poter sottovalutare, perché tutti ci rivolgiamo a Dio tutti abbiamo bisogno di essere esauditi, perciò dobbiamo prenderlo sul serio. Per prima cosa, Gesù ha giurato di esaudire le preghiere che vengono fatte nel suo nome. Cosa significa pregare nel nome di Gesù? Significa terminare ogni preghiera con le parole «Te lo chiedo nel nome di Gesù». Certamente no, perché una formula non garantisce l'esaudimento della preghiera. Pregare nel nome di Gesù vuol dire chiedere a Dio ciò che Gesù chiederebbe, e questo spiega il giuramento relativo all'esaudimento certo di una tale preghiera. Da notare che i discepoli non aveva mai chiesto nulla a Dio nel nome di qualsiasi grande profeta come per esempio Abramo o Mosè. Ma ora Gesù li invita di pregare nel suo nome. Ci voleva un bel coraggio a pregare nel nome di Gesù, anche perché farlo per i discepoli corrispondeva a ritenerlo, secondo quanto egli affermava di essere, cioè Dio. Diversamente avrebbero proferito una grande bestemmia. Questo particolare non ha forse da insegnarci qualcosa? Com'è possibile oggi rivolgersi a Dio nel nome di Maria o dei santi? Non è forse una bestemmia? Gesù ha detto di rivolgersi a Dio nel suo nome e non nel nome di qualcun altro. E, forse una conclusione discutibile, così disse l'apostolo Pietro, che è ritenuto dai cattolici romani il primo papa, e in nessun altro vi è la salvezza, poiché non ci è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti 4.12 dobbiamo prendere sul serio ciò che Gesù ha detto, anche perché lo ha giurato. Le preghiere degli uomini sono esaudite solo se rivolte al Padre tramite Gesù. Altrimenti, avverrà ciò che ha detto il profeta Isaia. Non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non ci è luce. Si aggirerà per il paese affranto e affamato, e quando avrà fame si irriterà e maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, poi lo volgerà verso la terra. Ed ecco calamità, tenebre, oscurità piena di angoscia, e sarà sospinto nelle più fitte tenebre. Isaia 8.1922 Il destino di un popolo che non si rivolge a Dio nel nome di Gesù è appunto quello di trovare solo dolore e angoscia, ma questo i popoli lo capiranno bene negli ultimi tempi. Infine, Gesù fa l'ultimo giuramento riferito a Pietro. Io ti giuro che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo gli disse, seguimi. 21.18 In un certo senso, questo giuramento riguarda me e te, perché essere cristiani significa andare là dove non vorremmo. Che se Gesù si è rivolto a Pietro come fa con tutti dicendo, seguimi, non rimane che seguire Gesù in quanto troppi sono i giuramenti da lui espressi per poter risultare falsi. E su queste dichiarazioni io riposto la mia vita, sia quella presente sia quella futura. E se fosse anche sbagliato porre fede in Cristo, come dicono i relativisti, meno ho riposto comunque fiducia in tanti giuramenti che una persona malvagia non può fare. Il che vuol dire che Gesù è veramente non solo il più grande uomo vissuto sulla terra, ma Dio stesso, proprio come egli ha giurato. Novembre 2008, Ellero.